RadioTube Social Network. Eccoci nella seconda ora del nostro RadioTube. La prima è stata molto intensa. Non lo so se Roberta Frisani in regia, Alessandro Schirano in redazione percepiscono l'intensità. Non lo so, io sono un po' stanca, mi sono impegnata molto, ma non perché, ma perché avevamo degli ospiti belli tosti, bisognava stare molto vigili perché erano tutti estremamente interessanti. Daniele Vicari, Filippo Sugar, Willy Peyote, Appino degli Zen Circus, insomma un sacco di ospiti molto interessanti. Andatevi a sentire la puntata in podcast se ve la siete persa, tanto poi c'è l'app di Radio 24. Ormai qui nel 2020, anche se ci perdiamo le cose, le possiamo recuperare senza problemi. Adesso però è il momento della seconda ora, quella di RadioTube Social Network, del co-conduttore d'eccezione. Non gli si sta più dietro, giornalista, scrittore, adesso anche conduttore televisivo, fa di tutto. Emilio Cozzi, bentornato Emilio. Grazie Marta, buonasera a tutti. Eccoti, ciao. Sei collegato in maniera tecnologica. Io non sapevo come mi sarebbe giunta la tua voce. Mi sembra di averti qui vicino. Vedi, come se tu fossi vicino. Allora Emilio, poi parliamo del tuo libro, perché è un fenomeno molto interessante, ed è anche la fotografia di un fenomeno molto interessante. Ti chiederò qualcosa anche dello spazio, perché ci hai fatto stare svegli durante il fine settimana. Ma cominciamo un po' con i video della settimana. Tanto tu ormai conosci benissimo RadioTube, voglio subito stimolarti un po' sui video più visti, più condivisi in questi giorni. Anzi, io direi nel primo caso nelle ultime ore. Eccola qua. Ho cominciato a notare quanto la narrazione dei media fosse spesso sbagliata grazie a un post di Spaghetti Politics, e lei faceva notare come in tantissimi fatti di cronaca, quando si parla di violenze, di minacce, di femminicidi, si cerca sempre di dare delle false scuse al comportamento maschile, quindi citando alcuni dettagli della relazione che dovrebbero essere ininfluenti. Per esempio si dice che il marito, il fidanzato, l'uomo in questione era geloso, che la donna gli faceva le corna, che lui era stanco di una situazione. Questi dettagli sono assolutamente ininfluenti per il reato che è stato poi commesso. Ma cosa succede? Le parole usate dai media in questo caso ci portano spesso a pensare che anche la donna in questione abbia una certa colpa di quello che è successo a lei. E la violenza dell'uomo quindi passa in secondo piano ed è in qualche modo in parte giustificata. Adesso con Genovese ho letto degli articoli assurdi in cui si parlava veramente di lui come un genio, e il fatto che avesse stuprato una ragazza non veniva quasi contemplato. In questo modo stai già dando un giudizio tu da media che influenzerà tantissimo le persone che leggono quel tipo di articolo. Questo fenomeno si chiama victim blaming. Allora, victim blaming, non tornerò sul tema di Genovese, ne abbiamo abbondantemente parlato. Chiara Ferragni che racconta di quello di cui si parla in questo periodo in rete, di come si parla delle donne. Allora, mi sembra molto interessante da parte di Chiara Ferragni, fresca vincitrice insieme al marito Fedez dell'Ambrogino d'Oro, che verrà loro tributato dal Comune di Milano, il riconoscimento della città. Molto interessante perché, insomma, Chiara Ferragni ultimamente è molto presente sui temi di attualità e cerca, secondo me, anche in maniera piuttosto interessante di diventare anche un po' una possibile specchio di coscienza critica per le follower, soprattutto, e per i follower soprattutto molto giovani. Emilio, che ne pensi? Dici bene Marta. Anzitutto complimenti alla Ferragni, perché come stavi giustamente dicendo adesso, utilizza la portata mediatica che è consapevole di avere per porre l'attenzione sostanzialmente di tutti, perché basta che ormai ne parli lei e un minuto dopo l'argomento diventa pubblico, un argomento appunto che è estremamente sotto traccia ma direi attualissimo, e mi duole dirlo entrando nel merito, non che serva il mio parere, ma ha proprio ragione lei, e lo dico anche da giornalista in questo caso. Purtroppo certi temi sono approcciati malissimo già quando li si comunica, senza nemmeno poi entrare nel decorso giuridico e processuale, ma solo anche a livello di cronaca. Io credo che l'approccio purtroppo sia viziato, e ahimè lo dico da giornalista facendo anche, come dire, una sorta di mea culpa. Purtroppo è così, la presentazione di notizie spesso è tendenziosa, cioè già nella presentazione contiene in qualche modo più o meno esplicitamente un giudizio, e su questa cosa lei ha ha perfettamente ragione. Devo dire che non sono d'accordo con quelli che hanno criticato, ad esempio, l'intervista, e mi riferisco a un altro fatto di cronaca, al fatto di cronaca tremendo della, della maestra d'asilo licenziata perché una persona ha condiviso un suo video privato, cioè una cosa gravissima della quale lei era vittima e non colpevole, e il danno l'ha subito oltretutto lei. Qualcuno ha criticato le interviste ai protagonisti della vicenda, invece secondo me per stigmatizzare il loro, la loro forma mentis, invece vanno fatti parlare. Certo, bisogna poi far capire che quello che dicono è veramente assurdo. Però vorrei farti riflettere su un'altra cosa, voglio chiederti cosa ne pensi, perché invece due ore fa Fedez, e tutti sanno che io sono una grande fan di Ferragni e Fedez, ma ogni tanto io mi arrabbio soprattutto con Fedez e lo dico ad alta voce. Allora, ieri mia moglie scrive su Instagram, ha pubblicato un video dove affrontato delle tematiche importanti che sarebbe interessante approfondire, scrive Fedez. Dispiace oggi vedere sui siti di informazione articoli come la ex di Fedez, che tra l'altro ha un nome, ha messo like al post di Chiara Ferragni. Ma davvero solo questo che può offrire il giornalismo online di oggi? Io credo di no. Allora, Federico, però, allora, non è che sfrizzi sfrazzi.ru è uguale al sole24ore.com, Corriere.it, Repubblica.it, La Stampa, Il Fatto Quotidiano, cioè alle testate giornalistiche. A volte queste scemenze, perché sono delle scemenze, vengono riprese da siti che di giornalismo non hanno nulla. E quindi se tu chiami tutto insieme giornalismo online, mi fai un po' di tutto un erbo un fascio. Ci sono giornali seri che poi possono cadere in qualche scivolone e poi però ci si rende conto e ci si scusa e si cerca di trovare un modo per riflettere sulla situazione, e ci sono invece delle pagine che servono per alimentare click e pubblicità. Ecco, mi piacerebbe che ci fosse questo tipo di riflessione. Io ogni tanto me la prendo da sola, perché ovviamente Fedez non è che mica sta lì e perde tempo a ascoltare me, però mi viene da dirgli: Federico, fai un po' di differenza su queste cose, e quando vedi una cosa che non ti piace in un giornale, citalo, di questa cosa non mi piace. Io sarei più contenta così, perché così poi ci si confronta per bene sul merito. Perfettamente d'accordo, Marta, facendo nomi e cognomi, come giustamente suggerisce peraltro anche sua moglie, cioè, quindi quando adesso Fedez ascolterà il tuo messaggio dirà: Marta Cagnola di Radio 24 ha detto questa cosa, io non sono d'accordo. Questo è un confronto intelligente, civile, che magari può portare a un approfondimento. Fare di tutta l'erba un fascio, come hai detto tu, tanto quanto dall'altra parte si fa di tutta l'erba un fascio dicendo, appena vedi che una donna è coinvolta in un reato da vittima, immediatamente per paradosso, io credo in un modo terribile, si insinui qualcosa nei suoi confronti, prima ancora di valutare il caso. Beh, è la stessa cosa da questa parte, ovviamente con due gravità decisamente diverse, ma fare di tutta l'erba un fascio è sempre, sempre, sempre sbagliato. Mi dispiace per Fedez, sua moglie ha però perfettamente ragione. Ah, ma sai che io sono sempre, io sono una grande fan loro, poi mi prendo un sacco di insulti dagli ascoltatori per questa cosa, soprattutto quando dico che io passerei la vita solo a guardare i video di Leo, che è meraviglioso. Ah, però voglio anche tirare fuori un altro video incandescente. Ascoltiamo un pezzettino. Ovviamente dobbiamo immaginarci la scena, perché l'abbiamo visto tutti. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada and Arizona. This is real. It is not made up. What we keep reading and hearing is that we have no allora, evidence. Rudy Giuliani tiene un discorso e fondamentalmente non è quello che dice, ma è quello che gli succede. Evidentemente fa caldo, non so, sudore o cosa, un rivolo di quella che è chiaramente tinta per capelli. Allora, io... Scusa Marta, no, qua, sì. ti devo sì. Non contraddire, perché in realtà non ho le prove, ma attenzione, perché un famoso chauffeur newyorkese, sì, sì, è assolutamente chauffeur, non so cosa ho detto sinceramente. Oui. Hai capito? L'altra la pétineuse ha stamattina ha dichiarato che no, è molto probabile che sia un tipo di trucco finito del mascara, finito tra le basette, perché la tinta non fa quell'effetto. E qui, da, come dire, informatore scientifico, io sinceramente preferirei, come dire, verificare la questione. Però di qualcosa che cola si tratta, ecco, sulla faccia, qualcosa, peraltro, ecco, che mascara finito su, cioè Roberta basette, che mi guarda dalla regia per dire non me la bevo. Ma com'è, come non è, la mia riflessione prima di dare la viabilità è: ma se noi stiamo attenti a non fare body shaming, giustamente, a non giudicare le persone per l'aspetto fisico, fosse pure che gli è colata della tinta, che voglio dire, viva Dio, una persona anche dopo una certa età, se vuole tingersi i capelli, se li tinge, è quella che gli americani chiamano una wardrobe malfunction, cioè un infortunio del vestiario, in questo caso del make-up. Però non è a questo punto body shaming prenderlo in giro anche con una certa violenza, perché ho visto sui social anche un certo disprezzo, non mi è piaciuto. Concordo perfettamente, ma vedi Marta, ogni cosa è la misura, per cui una battuta di spirito è una cosa, insultare o andare, io ho letto veramente delle cose terribili nei suoi confronti per questo evento, insulti aperti, ed è francamente, perdonatemi, mi sembra come quando alle elementari molto piccoli si prende in giro qualcun altro, perché in realtà non hai motivo per prenderlo in giro per quello che pensa o che dice, posto che non sia corretto neanche qui, e quindi ti scagli su queste cose che francamente non è neanche dibattito, è vergognoso ed è imbarazzante per chi pensa e pubblica quello che pensa rispetto a questi argomenti. Io credo che sia veramente vergognoso, al di là del fatto che appunto ora mi sincererò che sia mascara o tinta, insomma questo per me è un dato importante da giornalista scientifico, te lo dico. Ma adesso io poi non so, beh, credo che sia più, non lo so, adesso faremo un fact checking, chiameremo Federico, esatto, Fashion Style, che ci dirà, esatto, se è possibile. Però è brutto pensare che si possa fare body shaming sugli avversari politici o sulle persone con cui non siamo d'accordo. Abbiamo una grossa tradizione in Italia su questo, a me non è mai piaciuta. Ah, cosa facciamo? Mandiamo dei pezzettini dei Nirchiop, che bello. Allora, l'ultimo video dei Nirchiop questa settimana, che mi è piaciuto molto, le gaffe che si fanno, che sarebbe meglio non fare. Dai, un pezzettino e poi siamo ancora insieme dopo la viabilità. Svegliami fra 10 minuti. Oh, ma che dio, Gabriele, sta guidando, Gabriele, svegliati, Gabriele, omicidio! Oh, grandissimo, hai fatto bene, sei venuto con tua mamma. Buonasera, signora, come va, tutto bene? La mia nuova fidanzata, volevo presentarti. Radio Tube Social Network. Ah, mi piace molto, al 349-238-6666 mi arriva la segnalazione, basta guardare le storie della Mautino. Mautino è quella bravissima chimica, credo, che fa tutte le storie su come sono composti i cosmetici, le tinte. Vado a vedere allora, magari lei ci ha dato la sua, beh, io adoro, fantastico. Dobbiamo, mi piace tanto la sua analisi. me la sono persa, dopo vado a vederle. Allora Emilio, intanto lo scorso fine settimana ci hai fatto fare le ore piccole, dipende, giorno, notte, che ne cosa è successo la pena, lo scorso? Marta, beh, dai, ne sì. Cosa è successo lo scorso fine settimana? È successo che per la prima volta una missione di lunga durata, cioè quelle che durano 6 mesi, è andata sulla ISS portando 4 astronauti attraverso i servizi di una compagnia privata, cioè SpaceX, che tutti conoscono, credo tantissimi conoscano, cioè una delle compagnie di del buon Elon Musk. È la prima volta che una missione operativa, si dice, cioè che una missione a tutti gli effetti, vola attraverso una compagnia privata. Ricordiamo forse tutti, perché eravamo chiusi in casa lo scorso 30 marzo, maggio il primo volo test, per certi versi epocale. Questo non era un test, è un volo vero e proprio. Adesso 7 astronauti sono in orbita a lavorare e questo, insomma, un pochino cambia le cose dal punto di vista spaziale, perché a breve Elon Musk, lo ricordiamo, porterà Tom Cruise nello spazio. Si parla forse di 1 o 2 anni e poi il primo film di Tom Cruise girato nello spazio sarà realtà, cara Marta. Cioè, capisci? Ma io voglio andare a fare la radio nello spazio. No, non. Io, non sarebbe viene, male. Ma mi viene l'ansia dell'ascensore, Emilio. No, non è roba mia. Emilio Cozzi, che vediamo anche in televisione su canale 511 di Sky 61 di TVSat, Space Economy. Bravo Emilio. Beh, era grazie, destino, Marta, che grazie. Uno col tuo physique du role finisse in televisione. Ma bello, supereroe Emilio Cozzi. Ma Emilio Cozzi sta facendo, ma quante robe stai facendo? Hai fatto anche un libro nel quale hai raccontato la storia di un grande idolo dei ragazzi, eccolo qua. Wow, in base alla superficie cambia il feedback del pad. Per i single player forse questa è una delle migliori cose che si potesse fare. Ti dà proprio la sensazione che ti stai muovendo. No, sul serio, raga, il feedback di quando cammini è assurdo. Qua complimenti. Il feedback di quando cammini è fatto da Dio. E non vedo l'ora di vederlo nei videogiochi. Chi è? Spero che chi non è? Sia bello solo Emilio? Qui, Questo è Giorgio Calandrelli, che in realtà tutti i ragazzi conoscono come Power, perché è il ragazzo più seguito su Twitch in Italia, insomma uno di quei ragazzi, di quei pro player che videogiocano pubblicamente e hanno un bacino di utenza che è veramente paragonabile a quello di Chiara Ferragni, cioè pazzesco. Giorgio. E tu hai scritto la sua biografia insieme a lui, sì, ovviamente gli hai dato, sì, una, sì, hai, sì, curato la sua autobiografia, direi che forse è più giusto, diciamo, dire così. Un'autobiografia a quattro mani l'abbiamo, ecco, chiamata. Una bellissimo, roba... bellissimo. Un successo pazzesco, ma è perché noi in realtà, che non frequentiamo questo mondo, non ci rendiamo conto della dimensione che soprattutto sui ragazzi giovani ha questo fenomeno dei ragazzi che stanno su Twitch, dei ragazzi che giocano su Twitch. È qualcosa di enorme e che noi tocchiamo poco con mano, di cui parliamo troppo poco. È una cosa, è un fenomeno gigantesco, dici bene, e soprattutto le statistiche confermano, ai noi, cara Marta, che oggi i ragazzi e le nuove generazioni sono molto più su Twitch e molto più davanti ai videogiochi che non davanti alla televisione o sui giornali. Questo dice, al di là dell'esatto, questo dice, non è chiaramente un giudizio di valore, dice che le abitudini, anche a livello di fruizione o di acquisizione delle informazioni delle nuove generazioni, stanno radicalmente cambiando. Bene, le nuove generazioni hanno questi nuovi idoli, nella fattispecie Power, un giocatore professionista che quindi mostra in pubblico come si interpretano i più famosi videogiochi del momento. Lui è esploso, guarda caso, con Fortnite, un fenomeno che tu conosci molto bene, e questi sono i loro nuovi Michael Jordan, mi viene da dire. Come io impazzivo per Michael quando scendeva in campo, oggi i ragazzi impazziscono per Giorgio quando prende il pad e fa vedere come si gioca ad alti livelli su Fortnite. È pazzesco, e quindi insomma perché... è veramente un fenomeno gigantesco. Se sì. Noi non conosciamo questi fenomeni, è proprio difficile comunicare con i ragazzi più giovani, perché proprio il loro mondo è, cioè, può sembrarci una scemenza, possiamo dire vabbè, non sono cose importanti, ma è davvero un modo per rimanere agganciati al mondo dei più giovani, perché altrimenti non abbiamo proprio vie di comunicazione. Vero. Ma tra l'altro, guarda, non è un caso che tantissimi marchi, tantissimi brand, dall'abbigliamento all'automotive, al beverage, cosmetici, la moda, tra l'altro, alcune delle ultime sfilate di moda sono state fatte addirittura dentro contesti ludici, proprio facendo sfilare dei capi in alcune esperienze di gioco. Bene, tutti i brand stiano interessandosi proprio a questo fenomeno, perché, come dicevi adesso tu, se vuoi intercettare il pubblico del futuro, diciamo anche brutalmente i clienti del futuro, beh, li trovi lì, non li trovi purtroppo in biblioteca e nemmeno più così tanto allo stadio. Attenzione, questo è un fenomeno infatti che gli sport tradizionali stanno osservando con tantissima attenzione. Oddio, neanche noi della generazione X ci trovavano in biblioteca, cioè ci trovavano sulle TV private a guardare i cartoni animati, la verità, esatto, è questa, non vero, è che vero, poi vero, abbiamo vero. Letto i libri che dovevamo leggere, siamo magari diventati dei lettori, però forse a quell'età lì non è che poi noi possiamo dire con disprezzo questi videogiocano e noi stavamo chini sulle sudate carte. Tutt'altro, no. Ma perché... Il paragone che fai è perfetto, così come noi per certi versi ci siamo formati anche a livello culturale o a livello di amicizie. Tu pensa quante volte hai parlato con i tuoi amichetti dell'epoca di un film, di un cartone animato, eravate fan di questo o quell'altro personaggio. Quindi quella diventa un'esperienza aggregativa. Oggi il videogioco ha ereditato quel ruolo, quindi dire ma i miei tempi era meglio, secondo me suggerisce che siamo un po' vecchi. Non c'è mai basta, quindi siamo vecchi, abbiamo le cose, perso la memoria, perché noi magari facevamo il dibattito a scuola sulla puntata di Beverly Hills e loro invece parlano di un'altra cosa, ecco. Verissimo, ecco. Verissimo. Ma anche la paura è rimasta la stessa. Io ricordo addirittura in Parlamento a un certo punto arrivò chi si lamentava dei cartoni animati giapponesi, certo, come Goldrake, che portavano la violenza nelle case dei bambini. Io sono cresciuto con Goldrake, oggi al posto di Goldrake, e grazie a Dio dico io, oggi al posto di Goldrake ci sono i videogiochi, ci sono Fortnite, Minecraft, eccetera eccetera eccetera. Allora, tra l'altro Twitch, che è una piattaforma di live streaming, quindi diretta, secondo me un po' ha fatto capire alle piattaforme di streaming che ci vuole anche un po' di diretta, e non a caso Netflix ha annunciato che arriveranno delle trasmissioni anche in diretta, quindi forse la diretta non è morta, cioè oltre allo streaming vogliamo anche un po' di live streaming. Ma voglio farti parlare di un altro argomento, ecco qua un brevissimo video. In questo scatolone c'è una delle più grandi novità di quest'anno. Abbiamo del polistirolo, questo via. Andiamo ad aprirla. Sono veramente curioso di vederla dal vivo. C'è un'altra scatola, una matrioska, eh. Ok, ok, calmi. Abbiamo un manuale di istruzioni, cavo di alimentazione, il controller, altre istruzioni. Ma qualcuno le legge seriamente ancora le istruzioni? Cavo HDMI e questa che è una base che vediamo sempre dopo, ok? Ecco qua, lui è Jackie Dale, che noi avevamo già conosciuto, perché se non sbaglio lui era quello che aveva fatto una gita fighissima col monopattino, secondo me, esatto, era lui, ecco. Esatto. Allora, anche a me sembra di sì. Mi sembra che fosse lui. Unboxing PlayStation 5, cioè 1,5 milioni di visualizzazioni questo video, ragazzi, YouTube. Allora, intanto il concetto dell'unboxing, ne abbiamo parlato un po', sono dei video molto popolari su YouTube, gente che apre pacchetti di cose o che gli sono arrivate in quanto influencer o che sono andati a comprare, come se io oggi andassi a comprare una scatola di, che ne so, di trucchi e dicessi faccio l'unboxing e guardate cosa c'è dentro. Ma ci sono anche gli unboxing... No, sarà la prossima trasmissione nella radio spaziale. No, io voglio fare l'unboxing della spesa. Io adoro quelle che fanno l'unboxing della spesa, cioè che vanno a fare la spesa e poi tirano fuori, no, 6 uova, 2 litri di latte. Io le adoro, ce ne sono tante, io le guardo tutte. No, ma scherzi a parte, l'unboxing di questa PS5, io conosco poco il fenomeno, perché come sai io gioco solo a Candy Crush, ma io ho un sacco di amici che sono impazziti nella ricerca, impazziti. Cioè, effettivamente era qualcosa di molto atteso, Emilio. Qualcosa di molto atteso, già introvabile, insomma, una nuova console. Peraltro, per correttezza e per par condicio, come si dice, è uscita la settimana prima la nuova Xbox, per cui sia Microsoft che Sony si sono rimesse sul mercato. Ricomincia quella che si chiamava console war, cioè tra i fanatici di una casa e quelli dell'altra. E sostanzialmente, sì, dici bene, come epocale che SpaceX mandi quattro persone sulla ISS, è epocale ogni nuova uscita di console, nel senso che cambia radicalmente un'epoca di gioco. E sì, PS5 direi che ha fatto un debutto col botto, come si dice, tutto esaurito al primo giorno. Addirittura ieri sentivo dei colleghi che me la invidiano, perché a me è stata mandata qualche giorno fa, non riescono a prenotarla prima di marzo. Cioè, delle cose pazzesche, non Marta, riescono a prenotarla, no, prima di marzo. No. E questo ti dice anche quanto è importante, tornando al discorso di Power di prima e del videogioco in generale, quanto ormai il videogioco è diventato parte integrante della nostra quotidianità, senza parlare del fatto che durante il Covid, bisogna dirlo, il gaming si è leccato i baffi, lo dico molto cinicamente, cioè i volumi, il traffico, i soldi entrati in quel settore, col Covid sono letteralmente aumentati. Poi se vuoi entriamo in dettaglio, ma questo dice che oggi il videogioco è parte integrante delle nostre vite. Allora, facciamo una breve pausa, poi ti chiederò ancora qualcosa su questo argomento. Pausa, poi saremo ancora insieme con RadioTube. Silvia, un anno e mezzo che non ci senti. No, l'avete presa la scimmietta alla fine? Ma è mia figlia. Non mi consideri proprio più. Non ti sei neanche accorto che ho tagliato i capelli. Anna, non mi sembra il momento. Per te non è mai il momento. Anna, se non hai capito, ci stanno rapinando. Vedi, ogni scusa è buona per non parlare. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme per l'ultima mezz'ora del nostro pomeriggio in diretta con Radio 24. Tantissimi argomenti nel nostro Radio Tube Social Network con il nostro co-conduttore d'eccezione Emilio Cozzi. Emilio, eccoti ancora con noi. Dimmi Marta. No, perché hai parlato del fatto che è arrivata la PS5, tutti sono talmente impazziti perché è introvabile, cioè chi riesce a prenotarla non riesce a prenotarla prima di marzo. E io immagino tutti i ragazzini che la volevano come regalo di Natale. Sì, sì, sì. E non guarda, ce immagino sia. Immagino sia una strategia anche dei grandi rivenditori online, da Amazon in poi. Secondo me, ne danno delle piccole dosi ogni tanto. Quindi non escludo che magari prenotandola adesso qualcuno riesca anche ad averla prima. Funziona così. Però insomma, l'oggetto è abbastanza ricercato. Ecco, ma sarà più ricercata la PS5 o le scarpe della Lidl? Ecco qua i cartoni morti, eccoli. Grazie gatto per avermi insegnato a suonare il bongo. Prego. Ora posso piacere a tutte le ragazze. Ma davvero hai preso il bongo per piacere alle ragazze? Sì, perché? Non hai capito niente, alle ragazze non piacciono i bonghi. Come non piacciono i bonghi? No, a nessuno piacciono i bonghi. Quel venditore di bonghi mi ha fregato. Fidati, se vuoi piacere alle ragazze devi vestirti con stile. Con stile? Lo stile non va a pile, si dice a casa mia. Comprati queste scarpe. Che scarpe sono? Sono l'ultima tendenza, sono le scarpe della... Le scarpe di cosa? Le scarpe della... Non ho capito le scarpe di cosa? Le scarpe della Lidl, era per non dire la marca del supermercato. Ok. Guarda, te le regalo io, tanto ho fatto scorta. Grazie. Però in cambio vorrei che mi cantassi una nuova canzone. Ok, ne ho inventata una su Lukashenko che prima esilia tutti gli avversari politici e poi fa arrestare chi protesta per le elezioni falsate avvenute senza il permesso di controlli. Va benissimo per me. I cartoni morti sono delle star di YouTube. Sono veramente film d'animazione. Io li trovo di un umorismo spietato, corrosivo, abrasivo. Quindi il mio preferito, anche il preferito di Alessandro Schirano, che li ama moltissimo. Questa settimana questo delirio delle scarpe della Lidl. Allora, io non so che dire, un po' di leggerezza. Cioè, mi è venuto subito da twittare che sembrava che fossero scemi quelli che le avevano comprate e scemi quelli che non le avevano comprate. Cioè, chiunque insultava chiunque per qualsiasi cosa ne pensasse. Cioè, ragazzi, ma è un gioco. Oggi leggevo gente che si scandalizzava su Facebook perché qualcuno le mette in vendita a 30.000 euro. Non credo troverà nessuno disposto a comprarle. E se trova il gonzo disposto a comprarle, ma viva Dio, ma vuol dire che hai avuto un'idea geniale. Te li meriti. Esatto, avrebbe dovuto fare 35.000. A quel punto 35.000. A quel punto dici, mannaggia, a quel potevo chiedere di più. Che cosa ne pensi, Emilio? Tu come hai vissuto questa follia? Esattamente. Allora, devo essere molto onesto, l'ho vissuta con totale indifferenza, perché penso che tu abbia perfettamente ragione. Io credo che chiunque possa comprare quello che vuole e nessuno abbia il diritto di dire se gli altri comprano cose che non vanno o vanno bene, salvo ovviamente acquisti illegali, per cui ognuno può comprare le scarpe che vuole oppure non comprare quello che non vuole comprare. Mi sembra ovvio, per cui sai, nella nostra società, ahimè, l'indignazione è diventato sport nazionale, questo soprattutto i social hanno alimentato alla grandissima. Io credo che su certe cose la leggerezza sia come sempre l'atteggiamento più consigliato, francamente, e quindi sono d'accordo con te, Marta, ancora una volta, vedi? Vedi un po'. Allora, aspetta che intanto io posto su Instagram le foto delle ciabatte, perché ho comprato le ciabatte, perché le ho trovate, per caso, le ho comprate, non le ho ancora messe però. Voglio sapere cosa pensa di questa follia un grandissimo esperto, un enorme esperto di comunicazione. Nel 2018 è stato anche comunicatore dell'anno, ha vinto il premio Emanuele Pirella, si occupa di creatività, di nuovi linguaggi di comunicazione sui social media, ma non solo. È stato Chief Creative Officer di Ogilvy Italia, insegna alla scuola Holden e poi è stato a lungo e speriamo che possa tornare animatore del gruppo e delle dirette Instagram di Carosello Is Back, Paolo Iavichino. Ciao Paolo. Ciao. Non sapevo più, non sapevo più, cioè hai 8 pagine di curriculum. No, senti, io non ne posso più di questa storia, te lo dico sinceramente. Dimmi, però dimmi. Allora teniamo un doppio registro di commento. Il primo registro è più serioso, se vuoi, no? È che è quello a cui faceva riferimento Emilio sulla strategia della PSC. Cioè, c'è dietro un disegno che in gergo viene chiamato di scarsity, cioè tu scientemente porti a scaffale una quantità ridotta di prodotti per creare il desiderio a tavolino. Questa cosa però si fa da sempre, perché da io sempre. Mi ricordo Swatch, ecco, stavo citando proprio Swatch, che quando io ero alle scuole elementari, medie, i primi tempi non esagerare. No, dai, sto facendo i conti, sì. Beh, faccio un esempio da ex nottambulo, senza fare i nomi delle discoteche. Non vi ricordate quando in discoteca c'era fuori la folla e voleva entrare, poi riusciva ad entrare dopo un'ora di coda e dentro non c'era nessuno? È la stessa strategia. È lo stesso principio. Guarda che sto guardando su Wikipedia la storia di Swatch, Fondazione 83, e il siero alle elementari, dai, secondo me ti stai togliendo qualche anno. No, però va bene, no, 83, giuro. Marco, ti sto prendendo in giro. No, che dopo. Comunque, guarda, ma no, poi sai cosa c'è, Paolo? C'è l'ascoltatore che oggi mi ha scritto vecchia pantegana. Dice sempre che sono vecchia. Cioè, spieghiamolo. Ero alle elementari. Siamo orgogliosamente boomer, quindi io me sono generazione cosa... X con ma anche tu Paolo, cosa con sei Kaplan, boomer? Sì. Però generazione X di Douglas Kaplan. Sì, quindi, sì, anche tu, ecco. No, allora, quindi, questa cosa della scarsità, cioè un segreto del marketing da sempre, cioè da quando hanno inventato queste cose, insomma. Sì, le grandi marche lo negheranno anche sotto tortura, anche quelle che solamente un anno fa hanno messo a scaffale nuovi biscotti, che anche quelli sono finiti su eBay, te li ricordi? Adesso non facciamo certo i nomi, però quelli della famosa crema spalmabile al cioccolato. Per esempio, ma il principio era assolutamente più o meno identico, ma nessuno. Oddio, te lo dirà. Sai che mi sembra che tu mi stia parlando di un secolo Mera fa. Geologic, sì. Ma era vero. Così. Ma è incredibile. Sono stati, se vogliamo proprio fare una riflessione anche da questo punto di vista, sono stati anche abbastanza fortunati, perché lo stesso lancio probabilmente in tempo di Covid avrebbe avuto un effetto completamente diverso e li avrebbe costretti a disegnare il lancio in maniera completamente diversa. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, ha agito anche una buonissima dose di fortuna. E sul fronte invece del commento più leggero, io non riesco a essere spietato come solo Paolo Iavichino sa essere. Vai. Allora, se mettiamo sul mercato della roba che costa 13 euro, Marta, quella roba lì, secondo te, dove è stata fatta? E non è stata fatta da artigiani fiorentini. E come è stata fatta? E a che prezzo è stata fatta? Allora, forse è il tempo che qualcuno si renda conto che su queste speculazioni noi non possiamo più continuare a fare mercato. Noi non possiamo più continuare... Come io non riesco, scusami Marta, in questo senso non sono tanto d'accordo, non riesco a essere leggera sul tema, e non riesco neanche capisco, per carità, Lidl cavalca la tigre, ma quello che mi fa veramente tenerezza, per non dire cose peggiori, è vedere tante marche che di fronte al trend topic di turno cavalcano, come dire, l'onda della conversazione e si inseriscono copiando lo stesso principio narrativo e popolando i social di, come dire, cloni gialli, verdi e blu, adesso non mi ricordo neanche quali fossero le cromie, per fare il verso a Lidl con il loro prodotto. Quindi vanno, come dire, da un certo punto di vista a fomentare, certo, un atteggiamento senza fare una riflessione forse più sincera, più adulta, più secondo me anche più contemporanea sulla forzata di questa roba, perché questa roba qua è partita un anno fa, è partita fuori dal nostro paese. Noi abbiamo semplicemente replicato un meccanismo che altrove si era già verificato 5, 6, 7 mesi fa. Quindi i collector, gli addicted di sneakers, i collezionisti, cioè c'è una tribù intorno a questi fenomeni. Sì, c'è anche ad esempio una serie TV, una serie di Netflix che a me non ha fatto impazzire, che si chiama Sneakerhead, però se siete curiosi di questo argomento andatela a vedere, perché c'è proprio, ci sono delle app per rivendere le scarpe, c'è una follia. Ci sono delle tribù, c'è, sì, una comunità, sì, molto, sì, precisa, no? I reseller che stanno facendo l'operazione, il successo di questa operazione, sono fondamentalmente dei professionisti di queste meccaniche, hanno intercettato il fenomeno che è scoppiato quest'estate, mi ricordo, insomma poteva essere maggio, giugno, insomma altrove. Adesso è arrivato qua con tutto il condimento dell'influencer di turno, della vetrina su eBay. Non si sono fatti mancare niente dal punto di vista strategico, attenzione, questi signori. E noi siamo qui a parlarne come di un fenomeno sociologico. Posso chiederti una cosa, Paolo, però poi do la viabilità. Non è che questo fenomeno i social l'hanno amplificato? Perché io mi chiedo quanti sono i punti di vendita in Italia, quante scarpe avranno venduto, quanto, cioè sembra che tutta Italia fosse, io devo dire la verità, non ho comprato le scarpe, ma lunedì pomeriggio sono andata a fare la spesa e ho, uh-huh, per caso ho trovato le ciabatte e le ho comprate per dimostrare, sì, che non era una roba così assurda. Perché ci volevi stare dentro questa cosa? Perché ci volevo stare e volevo così giocare al gioco, però sapendo che stavo giocando a un gioco. Certo, il problema è che per te è un gioco, per altri è un gioco maledettamente serio. Cioè c'è gente che ci sta scrivendo case history, sta rifacendo chart di PowerPoint per portarle in università. Ci sono clienti che ci scriva un qualche capitolo di un qualche libro. Paolo, ci sono clienti che chiederanno a voi professionisti di fare una roba uguale. Io temo il brief di lunedì quando mi chiamerà. No, io no, perché per fortuna ho clienti più intelligenti, però insomma le sento già le telefonate di lunedì. Oh, ma perché non facciamo come Lidl? Ma certo. Te lo sottoscrivo. Oh, ancora peggio. Il collega, l'agenzia che lunedì chiama il cliente e dice proattivamente: ma perché non facciamo come Lidl? Che è proprio ancora peggio. E ce ne sono purtroppo. Quindi stiamoci, come si dice a Roma, stacce. Però con, secondo me, con beneficio di inventario. Certo, anche perché poi non è che nemmeno loro riusciranno a farne una dietro l'altra. Questa è andata così e poi vedremo la prossima follia. Aspetta Paolo, facciamo una cosa, diamo la viabilità e poi così lascio un po' di cliffhanger, di suspense, a tra poco. Ed era Bilbo Baggins. Di nuovo? Raga, ma anche voi non sentite più i sapori? Amore, com'è? Buono. È buona, lo faceva meglio la tua ex. Cosa? Hai ragione, tua madre, la tua ex e poi ci sta lei. No, ma come ti permetti, cioè? Viene prima l'egiziano sotto casa, poi mia mamma, poi la mia ex e poi lei. Giusto. Vabbè, dai, poco fuori dal podio, si impegni i prossimi anni. Radio Tube Social Network. Eccoci qui ancora con il nostro conduttore Emilio Cozzi, anche in collegamento con Paolo Iabichino. Paolo, ti ho interrotto per fare così la suspense prima della viabilità. Stavamo parlando appunto del caso di Lidl e di tutti i clienti che poi verranno a chiedere delle campagne uguali e con la stessa efficacia. Non facile, no. È andata di lusso a loro, nel senso che sì, no. Quanto si può prevedere un fenomeno del genere che possa investire i social? Ma senti, ci sono delle tecniche molto precise, di prevedibile non c'è veramente niente, cioè tu puoi metterti con un certo atteggiamento in rete e sui social e poi speri che vada come hai scritto e come pensi che possa andare. Però insomma di prevedibile non c'è, quando esci dall'ordinario di prevedibile non c'è niente. Qua stiamo parlando comunque di un'operazione non convenzionale, quindi prevedibile non c'è molto. La cosa che mi dispiace tanto è che secondo me Lidl ha un potenziale di marca molto forte, che all'estero è stato anche protagonista, per esempio in più occasioni a Cannes, festival della comunicazione internazionale. Questi signori hanno vinto dei gran premi in passato costruendo dei racconti belli. Io ne ricordo un paio. In un'occasione avevano intercettato una conversazione su Facebook di un consumatore che denunciava il fatto che il latte in vendita alla Lidl non fosse fatto in Germania. E questi hanno intercettato, adesso lo sto andando a memoria Marta, quindi magari sto dicendo delle imprecisioni, però il senso del progetto è che questi hanno intercettato questa conversazione, l'hanno sparata sui pack di latte, con lui protagonista, guarda, l'ho presa in rete, si chiama Lidl Boss's Milk, e c'erano in vendita i cartoni di latte con la faccia di questo signore che aveva così, che poi ovviamente ha accettato di buon grado, certo, questa cosa, però per, come dire, sbugiardarlo rispetto alla filiera di provenienza di un prodotto. Quindi bisogna essere avanti per fare questo tipo di campagna. Un'altra volta hanno fatto, credo fossero proprio loro, ma credo un ristorante. Hanno aperto un ristorante blind, senza insegne, cioè tu andavi, ovviamente un video costruito ad arte per Cannes, andavi a mangiare in un ristorante lussuosissimo e solamente alla fine, quando ti portavano il conto, e il conto era irrisoriamente basso, scoprivi che tutto quello stato servito, te lo ricordi Emilio, che era stato servito era stato preparato con ingredienti e prodotti in vendita dentro Lidl, una roba assolutamente inaspettata per creare un posizionamento assolutamente inedito per loro. Quindi come fai a tenere insieme queste due narrative? Da una parte una marca che vuole certificare una terra, che vuole riposizionarsi attraverso la qualità e il tema costo qualità insomma messo in campo con dei racconti, e dall'altra poi sputtani, si può dire? Sì, si può dire, okay. Radio 24 siamo sportivi su questo. Ok, sì, poi ne avete insomma, ecco, a confronto sono un'educanda. Dai. Cioè, poi sputtani tutto veramente con la cinesata, scusate, ovviamente un termine mai usato bonariamente, però col prodottaccio lanciato per creare il fenomeno. Cioè, guarda, sarebbe stato, sai cosa? Abbiamo pochi secondi per questo. Rivoluzionario per Lidl, la stessa sneaker, metterla a scaffale a 250 euro dentro il loro discount. Bella questa provocazione. Guarda, sarebbe stato. Questo è il ribaltamento di prospettive che devi fare per imporre un nuovo modo. Se no, così noi continuiamo a fare mercato in maniera tossica. Allora, io devo ringraziare le riflessioni sulla comunicazione, le farei per ore, con Paolo Iabichino e con Emilio Cozzi. Grazie ragazzi, grazie. Ciao. Paolo, grazie Emilio, che bello. Grazie a te, rifacciamo, Marta. Rifacciamola, grazie. Rifacciamola tutti insieme. Grazie a tutti per essere stati con noi con RadioTube. Ringrazio Alessandro Schirano in redazione e Roberta Frisani in regia. Noi ci risentiamo domattina dopo il giornale radio delle 7 con RadioTube l'intervista. Ci sarà Angelina Mango, ma ci sentiamo anche dopo il giornale radio delle 8, perché c'è il reportage che ho confezionato io per voi. A domattina. Mi raccomando, niente abbracci, niente smancerie. Per mio fratello io e te siamo solo amici. Me l'hai detto mille volte, va bene. Hai la cerniera aperta? Sì, lo so, scusami, è che l'abbiamo fatta in ascensore. Due volte. No, no, no, no. Oh, ti vedeva.